Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho ascoltato la trasmissione sulle centrali nucleari. Una cosa è certa: non si può cestinare un referendum su una scelta così importante che gli italiani hanno fatto. Poi si può parlare di tutto quello che si vuole, ma per tornare al nucleare credo ci sia bisogno di un ulteriore referendum. I costi di smantellamento di una centrale sono enormi, più di quelli per la costruzione. E le scorie radioattive? Il Piemonte è ancora pieno di scorie della passata epoca nucleare italiana. Non credo che il nostro sia un paese in grado di smaltirle, visto che si hanno problemi anche con i normali rifiuti. Senza contare che la loro radioattività durerà per millenni. Siamo i primi uomini sulla Terra che stanno studiando come far conoscere alle generazioni future dove abbiamo stoccato le scorie e come segnalarle. Inverosimile. L'uranio costerà sempre di più, perché la sua disponibilità sarà sempre minore. Senza calcolare i rischi e gli innumerevoli incidenti, compresi quelli che si sono verificati nelle avanzate centrali francesi. Se il Chip 6 che noi paghiamo nella bolletta dell'Enel avesse davvero finanziato fonti alternative, noi ora esporteremo energia e saremo il paese più verde del mondo. Perché non parliamo un po' anche di queste cose? Ivan. Ho ascoltato la vostra trasmissione sul nucleare e ho trovato molto fastidioso sentire i commenti offensivi dagli ascoltatori, immagino non nuke. La cosa che mi fa impazzire è il fatto che gli antinucleare, spesso, sono anche pacifisti e politically correct. Questo secondo la loro personalissima percezione delle cose. Se però non la pensi come loro, ti insultano. Personalmente sono favorevole al nucleare e non avrei da obiettare se mi piazzassero una centrale nella zona dove risiedo. Sgombro in questo modo il dubbio del not in my backyard. Roberto. Stiamo attraversando un momento di grande crisi economica e le porte dei negozi vengono tenute abitualmente aperte, forse per invogliare la possibile clientela ad accomodarsi all'interno ed effettuare gli acquisti. La porta aperta è un invito ad entrare, ma può anche far sembrare che la clientela non sia capace di aprire o chiudere le porte. La porta aperta disperde nell'ambiente molto calore dei riscaldamenti e aria condizionata in estate, aumentando la dispersione energetica e aumentando notevolmente il livello di inquinamento, polveri ed innalzamento della temperatura globale, con forti ripercussioni ambientali, provocando disastri e catastrofi naturali legate prevalentemente alle mutazioni climatiche. Riducendo quotidianamente le emissioni inquinanti, cambiando lo stile di vita, possiamo migliorare l'ambiente in cui viviamo. Basta poco, ma l'importante è iniziare, anche solo con dei semplici gesti. Tenere chiuse le porte dei negozi può essere importante per arrestare i cambiamenti climatici. Tutti parlano di rispetto per l'ambiente, inquinare meno, tenere i riscaldamenti di condizionatori delle abitazioni a temperature accettabili e accesi per periodi brevi, di non tenere le finestre aperte per evitare le dispersioni, di non tenerli accesi per periodi lunghi per evitare un eccessivo consumo energetico. Considerando con attenzione che forse sia più importante salvaguardare la terra che non vendere una maglietta, ritengo che la soluzione a questa moda deleteria sia quella di vietare il mantenimento delle porte aperte per rispettare l'ecosistema. Cambiamo stili di vita. Iniziamo da semplici gesti. Laura. Tutti i pendolari di Anzio, Nettuno, Campoleone, Aprilia sanno bene che per tratta infernale si intende la linea ferroviaria Nettuno-Roma, che per il secondo anno consecutivo ha vinto il premio Caronte di Legambiente per la scadente qualità del servizio. Su questa tratta, specialmente in determinate ore, si viaggia in condizioni di vergognoso disagio. Pigiati al limite della capienza delle carrozze, respirando aria viziata e in carenza di ossigeno, tenuto conto che i finestrini sono chiusi. L'impianto di condizionamento non funziona o, se funziona, non è adeguato al numero di persone presenti. La temperatura è torrida e non ci si può alleggerire, perché stando in piedi non si saprebbe dove mettere i soprabiti. I treni sono sporchi e spesso impregnati di odori nauseabondi. Alle fermate è difficile capire dove ci si trova, dato che, specie di sera, riuscire a leggere i cartelli delle stazioni è questione di fortuna e nelle carrozze non sono attivi gli avvisi con altoparlanti che nel resto d'Europa funzionano oltre che nei treni, anche nei bus urbani. E così si rischia di saltare la propria fermata. Anzio e Nettuno assommano oltre 100.000 abitanti, ai quali vanno aggiunti gli abitanti degli altri comuni intermedi. Sono numeri di tutto rispetto che, forse, meriterebbero maggiore attenzione. Per gli abitanti di Anzio e Nettuno, l'alternativa alla tratta infernale è il percorso con l'auto privata. Si tratta del percorso sulla SR 207 nettunense, delimitata al lato di entrambe le carreggiate da alberi assassini, che concorrono a renderla l'arteria stradale con il più elevato tasso di vittime per chilometro, in aggiunta alla SR 148 Pontina, che si trova anch'essa ai primissimi posti nella macabra graduatoria. Pertanto i pendolari dispongono di tre tratte infernali. Come dire, dalla padella alla brace. Le situazioni descritte costituiscono una vera e propria vergogna nazionale. Anzi, per quanto riguarda la Nettunense e la Pontina, ci sarebbero gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili per omicidio colposo, plurimo e continuato. È quindi quanto mai opportuno e urgente che i sindaci delle città maggiormente interessate dal fenomeno mettano da parte le rivalità politiche concordemente, si attivino a livello nazionale per cercare di porre fine a queste vergogne. Cesare Anzio. Gentile direttore, per il deposito della motivazione della sentenza sul caso tristissimo di Perugia occorrono 90 giorni. Ora, al fine di evitare che nelle trasmissioni di approfondimento Bruno Vespa e gli altri conduttori televisivi, gli avvocati, i periti e i parenti degli imputati e via di seguito siano costretti a lavorare di fantasia, non sarebbe opportuna una legge che stabilisse che la sentenza debba essere depositata entro brevissimo tempo? Così, in base a dati certi, i conduttori potrebbero fare meglio il loro processo, che ovviamente non possono rinviare. Il ferro, infatti, va battuto quando è caldo, quando ancora è vivissimo il dolore dei familiari della vittima innocente, Francesca. Sono appena tornata dalla Liguria. Quasi nessuno rispettava il limite dei 130 e nessuna contravvenzione è stata elevata dalle 17 alle 19 sulla A7. Quando si discute se innalzare o no il limite di velocità in autostrada, si discute sul nulla, perché tutti possono fare i loro porci comodi senza conseguenza. Viva l'Italia! Maria. In questi giorni sono venuti alla ribalta della cronaca due camorristi. Da un lato il pentito Spatuzza e le sue accuse nei confronti di Berlusconi. Dall'altro Graviano e la sua recente smentita. Ora, se il primo non può essere credibile, come sostenuto da più parti, perché dovrebbe esserlo il secondo, che non risulta certo essere un santo? Un ascoltatore. È mai possibile che un boss come Graviano confermi le dichiarazioni di un pentito come Spatuzza? Cioè di un infame, come loro li chiamano? Chi ha chiesto di sentire i Graviano? Chi ha ammesso questa testimonianza risibile? Giuseppe. Caro direttore, quando diventeremo un paese normale in cui ognuno farà la sua parte? Politici, uomini di governo, magistrati e sicuramente anche i giornalisti. Tutti ora impegnati a lanciare accuse, a fare processi, a stilare pagelle sul lavoro altrui. Quando la politica tornerà al servizio dei cittadini, la giustizia al servizio della legge e la legge a garanzia di tutti. Alberto. Caro Alberto, lei mi chiede di fare in parte l'indovino e in parte l'analista politico, almeno degli ultimi 30 anni della storia italiana. Posso solo dirle che è vero che non siamo purtroppo un paese normale. Un paese in cui la vita quotidiana sia contrassegnata dal rispetto degli interessi dei singoli nell'ottica del benessere comune. Invece l'Italia è scivolata in un clima di contrapposizione permanente, in un bipolarismo forzato ed esasperato che ha portato ai massimi livelli le tradizionali divisioni tra Guelfi e Ghibellini, tra i fedelissimi di Coppi e quelli di Bartoli, per parlare dell'oggi, i favorevoli e i contrari a un discusso allenatore di calcio. Certo, sarebbe molto meglio se la politica trovasse anche momenti di unità. Sarebbe molto meglio se il Presidente del Consiglio rispettasse le regole e le istituzioni. Sarebbe molto meglio se il processo breve fosse tale solo per l'efficienza e la capacità dei magistrati. E potremmo continuare ancora a lungo. Ma forse sarebbe anche meglio se, oltre a lamentarci giustamente per quello che non funziona, facessimo tutti un piccolo passo avanti per ridare fiducia al Paese. Magari ricordando la famosa preghiera di Tommaso Moro. Dacci la forza di cambiare le cose che possiamo cambiare, la pazienza di sopportare le cose che non possiamo cambiare e l'intelligenza per distinguere le prime e le seconde. Scrivo a proposito della lettera di Celli al figlio, nella quale gli consigliava di cercare fortuna all'estero. Trovo che il messaggio di andare a lavorare all'estero possa indirizzarsi solo ad un ristretto numero di persone, ovvero a quei neolaureati che hanno la fortuna di avere una famiglia alle spalle, che li può sostenere nei costi di viaggio e alloggio anche dopo gli anni dell'università. D'altro canto, sono d'accordo con il messaggio di Celli, anche se andrebbe approfondito e ampliato. Facciamo però un po' di conti. Mia madre, pensionata baby, percepisce da 20 anni una pensione che è superiore di 100 euro al mio attuale stipendio e le auguro di cuore di campare altri 20 anni, come lei, mia zia, la mamma della mia amica, la zia della mia amica. Vogliamo tirare fuori i numeri e spiegare perché le aziende versano un terzo dei nostri stipendi allo Stato e non possono lasciarceli nella busta paga? Ma vada pure per un terzo del mio stipendio allo Stato, purché serva per i servizi pubblici di cui ho bisogno. E invece no, quei contributi non li rivedrò mai più. E allora, un po' di scoraggiamento me lo dovete consentire. Elisabetta. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.